Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, il direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Alessandro Chiesulin, dal titolo Lampi di gioia. Donami sorrisi, li scolpirò nei volti degli ignari passanti, modellandoli per le notti in cui scruterò l'abisso. L'umanità risplenderà nel tuo lampo di gioia.